è bello. C'era un amico, ne stava venendo uno, era un affarone, era proprio una buti buti all'inizio, una casa col terreno, la trovando 75.000 euro, ed era un affarone, non so se l'abbia venduto. Io per me non lo voglio, io per me deve essere tutto a cemento, capito? Non vedi di tagliare, di portare erba, non è fatto niente, vuoi un giardinetto intorno alla casa e basta, capito? Io sto per tenere un bel cane, poi il resto non me la fotti nulla a me di stare a fare il campagnolo. Il problema è che in condominio ci sono troppe specie, cioè allucinante. Allucinante, adesso vogliamo fare il prato, 400 euro a testa, da poco abbiamo messo 300 euro a testa per fare tutte le recinzioni nuove, e quello ma va a fare un culo, che ma per carità di Dio. Quello che c'ho a fianco a me, Claudio, il palazzo a fianco a me, lo sai quanto hanno pagato a testa di, per rifare la facciata, sistemare le teste, tutto un quarto, di una cifra. Vabbè, siamo usciti 4 anni fa noi, abbiamo speso 350.000 euro, lo sai cosa vuol dire? E siamo in 110, fatti il conto quanto abbiamo messo a testa, fatti il conto quanto abbiamo messo a testa più di 1.000 euro, lasciami stare qua, che per carità, ne sono uscito 4 anni fa, fortunatamente l'abbiamo dato a provare da voi, piano piano, e non ce ne siamo accorti. Ma 4.000 euro a testa solo per fare la facciata, 1.000 euro, poi dicendo, di più. È una cortina piccola, dopo la metti neanche. Il cortile è piccolo, no, Gianfra, non c'è il cortile piccolo. Il cortiletto, giusto un prato, porteremo un vulcane, con uno spiazzo a cemento, e faccio fare lo scavo, metto il traliccio, bello fugato nel cemento armato, e lì mi posso svisare con l'antenna, mi basta pochissimo, a fianco alla casa, un bel traliccio, e nessuno mi rompe la palla, la mattina non mi sveglio, sono in pensione, mi guardo l'antenna, mi accendo la radio, e boh, non vado mia lì, un chico quasino, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, ma per carità. Claudio. Ui. Tu ti sei ammantato per 1.000 euro, ti ho detto questi a fianco a me hanno fatto un lavoro di 200.000 euro, lo sai quanto ti è venuto a testa? 12.000 euro, c'è gente che ha dovuto chiedere prestito di soldi perché non riusciva a pagare, 12.000 euro. Perché siamo in pochi, ma noi siamo in 100, quindi cosa, non è quello il problema. Ripeto, noi abbiamo speso 350.000 euro, siamo in 110 o 120, perché sono tutte scale a scene da fare, quindi già ci siamo, un po' di persone siamo. Però abbiamo dato una parte inizialmente, una parte è stata avanzamento lavori e il sabato poi non hanno finito, quindi sicuramente bisogna fare di 6 mesi ogni. Però piano non te ne accorgi, ma tirati fuori tutti assieme, è una rottura di palle, adesso vogliono fare i giardini, e vogliono la potatura degli alberi, e vogliono un bel polvere, ma vai non a mare. Comunque ciao Gianfranco, ben sentito, compagnia mia, ci dovrebbero essere anche altre persone, vediamo, facciamo un giro, c'è Gianni doppio rumo, Luca e Eugenio, Daniele è andato via, vediamo, facciamo un giro, prima te Gianfranco e poi passiamo agli altri. Sì, buonasera, sono entrato un po' così perché ero in ascolto e ho sentito Claudio che si è contattato del cortile, però tra l'altro tutto cementato, ma neanche un albero per prenderci un diploma, mi sembra un pochettino primitiva la cosa. Poi un consiglio Claudio, stai attento al cortile perché dove ci sono cortili piccoli c'è anche l'altra casa a fianco e se c'è l'altra casa a fianco c'è sicuramente anche un vicino rompipalle. Quindi meglio avere un po' di terreno, così il traliccio lo piazza al centro e nessuno ti rompe le scatole del suo stegno, perché se c'è un cortile piccolo poi è un caso. Ok, riprendi tu Claudio, non so chi ci fosse, sto ascoltando ma ho sentito solo voi due, quindi non so se c'è qualche altro che vuole intervenire, quindi prenditelo almeno con 2.000 metri di terreno. A te Claudio. Sì. E io adesso faccio girare Gianfranco, poi vicino di casa c'è un portolano a uso sportivo, quindi li parlo subito con la bisciola. Se poi si mette a correre, proprio dal 1° gennaio mi sono preso il portolano per andare a caccia, ma poi si riesco a dimagrire un pochettino, quindi c'ho anche il fucile, perciò non può mai correre per spostarsi. Poi vicino di casa problemi non ce ne sono, guarda, assolutamente. Poi capito. L'importante è non rompere il pallone sciuo, quindi se tu lo rompi automaticamente non te lo rompono, ma se poi non lo rompono c'è sempre rimedio, capito? Un tiro di palla e si va fuori. Avanti, proprio Roma. Ma tutti i palazzi, tutti i condomini così, Claudio, c'è sempre quello che si alza, magari non sa dove buttare i soldi e comincia a proporre fioriere all'entrata e mettere a posto tutti quanti gli stalli del cortile, dei parcheggi e aggiustare il cancello, fare pitturare quello e fare l'altro. C'è sempre qua, anche nel nostro portone c'è. Buongiorno, ne siamo usciti da poco, cioè con la crisi che c'è, io non sono andato all'ultima riunione, mi è arrivata la lettera, si comunica che è stato deliberato, carte religione e mi sono consultato. Mi sono spaventato, ma che cazzo può fare mettersi a portare gli alberi, 25 euro albero, o mi pare 50 euro albero, portando via anche la legna, pulendo tutto, c'è un mare di alberi, ci mare gli alberi, tutta la parte dei giardini, il retro, front, che fa me una frutta a me. Ma io a casa mia non ero, ma quello l'ho abbastanza curato, c'è cioè, quando di venire fisso che viene tre volte alla settimana a controllare le foglie, a pulire il piazzale, a pulire tutto, e cioè poi gente è mezzo pazzo, capito? Poi sono che tutti viviamo nel loro, ma te ne andai a far culo, non do manco 5 lire, ma che mi rompono le spalle. Capitato in un palazzo dove siete pelati di soldi, perché anche nel mio palazzo c'è un avvocato, c'è un altro che fa l'ingegnere, c'è quello che lavora all'ospedale, c'è tutta gente che sta bene, capito? Uno lavora alle poste, e tutti quanti stanno molto bene, dai, quindi non hanno problemi come può avere un operaio. Sì, ma a me non è una funzione così, è disoduttore, io gioco operaio. No, la tasca mia non la conosco. Ne possono avere anche più di loro i quattrini, capito? Però non sono abituato a buttarli. Perché se vedo che è abbastanza in ordine, non c'è bisogno adesso di rompere palle, a fare l'IVA, a migliorare queste stronzate. Ma vai a cagare. Ma cosa me la fotte a me, capito? Non me la fotte più nulla. Io non mi lavoro basta, te l'ho già detto amministratore, vai in linea che non ti ho manco il cinto, sempre da così, se vuoi c'è il primo a parlare, vabbè, non ti preoccupare. Ma ci vediamo quasi, e si viaggia mi rimango in busciacca, avanti Massimiliano. Positivo, ma te lo trovo, guarda il cornicione pulisce. Allora, il colpino mi aspira tutto però. Buonasera a tutti, Massimiliano Bulldozer, ciao, sono andato solo il volume, bene parlando. Sento bene, la parte mia, sì, fortissimo, va bene, la radio è bella, poi guarda non so, io la parte mia va benissimo. Esci da casa, esci da casa. Lo sapete che c'è una cosa sull'amministratore? Parla bene amministratore, non capo niente, non mi dimmi. Non sai cosa ha fatto, uno che conosco io, per farsi di là, siccome è tutta una mafia, ce ne sono onesti e molti disonesti, e vanno su qualche appartamento, qualche palazzo dove c'hanno la gestione loro, il condominio, e là fanno un pezzo di intonaco, subito chiamano i vigili del fuoco, intervengono i vigili del fuoco, fanno la relazione, vengono i vigili urbani e ti fanno subito la riunione del condominio per rifare l'intonaco, per rifare la facciata. Guarda la puzza, dove abita un amico mio, l'hanno fatto due volte. Sono tutti ladri. Perché in giro di un anno si facciano tre riunioni e in giro di un anno si deliberano cose assurde, cioè ma poi vita sotto piano così. Quello del primo piano, il piano terra, praticamente il primo piano, dice che c'è freddo, capito, che c'è freddo, e quindi vogliono commentare il solaio del piano piloti. E perché la di bagaglio? Io non ho mai freddo. Ma se è vero che non tutti i ladri sono amministratori di condominio, ma è vero anche che tutti gli amministratori di condominio sono ladri. Un saluto a tutti, scusate, una buonasera. Ciao Massimiliano, tu sei devastante oggi. Cioè, che senso? che siamo di qua. Giri a 360 gradi senza doversi bloccare. Non si può fare, ma tutti segnalation del tuo bravo. No, negativo, negativo. Se tu guardi, ci sono dei connettori che proprio sono fatti a spazzole e possono girare a 360 gradi senza che si intorcineggia nulla. Ecco, è un buon sistema. Ma come ci vedrà, se vuoi il mano per quella direttiva, visto che devi mettere il motorino della gravità, trovo io il mano, ma ti do due tranche di tonno e le prepari subito, mentre sta girando. Positivo, va bene. No, ma va tranquillo, va. Non lo voglio dire in radio con voi cosa ne sta facendo, ma sono sicuro che funziona, tra. L'importante è usare l'ammorbidente giusto, tira giù dritto. Lo sai, tu? Un motorino della panna 4x4 e 16 cristalli, bella. Quello sì, quello va benissimo. Antonio? Eia. Lo sai con cosa ho visto? Voi state cercando di motori. Un impianto motorizzato fatto con un motorino di TG cristallo. Se tutto il meccanismo, cioè i bracci del motorino di cristallo, continua a girare come un motore normale, come un motore di trappola. E questo ho fatto un impianto motorizzato utilizzando un motorino di TG cristallo. L'ha appena detto Massimiliano, se non sbaglio, no? Sì, ma tanto con quale antenna però cosa fai girare con un motorino del genere? L'antenna che ho io, l'antenna che c'ha Fabrizio, l'antenna che c'ha Matte, cioè le antenne grosse, quelle lì, puoi far girare una neobanda, un elemento, ma di sì, una cosa, un quarto d'onda, cosa fai girare, robe? No, io stavo parlando di parabole piccoline, poi si è fatto una parabola di 80 cm e l'ha fatta girare con un motorino di cristallo. No, aspetta, se c'hai degli ingranaggi, dei moltiplicatori, puoi far girare anche una casa. Vivo tempo, però. Ehi, ancora quelli veri sì, però... No, scusa, pensavo un'antenna... Perché sembra così, Robert, però quando già fai girare altri elementi, che io parlo della mia, è una quattrata, però c'ha 6 metri e 50, di bunta è 3 metri e 50, non è piccola. Quindi quando tu inizi a far girare con un motorino non gira un'antenna così, cosa ti gira? Come arriva a raffigare il vento che non blocca il rotore, la sola che c'è. Poi, quella... Poi... Cazzo, guarda, voi Antonio. Quella cazzona che c'ha con voi, io non la chiamerei neanche direttiva, cosa la vuoi chiamare? No, già va bene a fare le fettine al sangue, ma chi si riguzzineggia troppo si brucia tutto. Siete bastardi dentro, Piazza. Divertitevi, dai, che io vi ascolto, che sto facendo una cosa, non solo che sto facendo cosa al computer. Divertitevi, dai, che vi sto ascoltando e sto facendo qualche risata. Oggi. Massimiliano. Cosa? No, ho detto Massimiliano, beh, quello sì, lo corto era. No, va bene, però passava, mi sono messo una mezz'oretta, c'è un altro problemino lì. Non è il problema dello stilo, perché lo stilo fa bene che proprio mancano quei 4 centimetri che cioè ci sono in più quei 4 centimetri che mancano al mio. Il problema è la carica lì di quell'antenna. Cioè? È spezzata, e io non me l'ho accorto, la ti chiedo la base del particolare. Ma guarda anche la base, si va anche la base. Passa e te la prendi. Quella di sotto no, quella di sopra non lo stile, va. Quella che ne ho smontata, vieni e te la prendi. Ocla. E comunque voglio spezzare una lancia in favore di Pomponi, assolutamente, io gli voglio bene, come se fossimo due fratelli. Hai presente a Caino e Abele, prezzisi. Se non ci fosse Antonio Grode bisognerebbe inventarlo, lui che sei cattivo dentro, tu me. Più che cattivo bastardo dentro il fuoco. Con l'utulio che ne sta scendendo. Vabbè, comunque, non vengano queste graviglie. piace quel tipo di cose, capito? A proposito, come mai non si è più sentito? Questa faccia una visita. Questa faccia non è direttiva a me. Come va a dormire? Gira, io non ho più acqua. Se la prima radio di quartiere vuoi fare. Tu l'aveva fatta, mi non ricordi cosa faceva la radio per la zona sua. L'ha regalata a me, l'ho accesa, l'ho attaccata al frequenzimetro, non vi dico davvero. E finisco che tu, Claudio, vieni qua, la piazzi, la tagliamo bene, la facciamo anche girare, si lascia come io, già tutto lo bravo. Tu non l'hai fatto visto stamattina, dico dove sei salito stamattina, Antonio, avevo dormito. Dove sono salito? L'unico che ho voluto salire sul tetto. Quale? Quella specie di scivolo verso l'inferno. Non sono abituato all'altezza. Sono agile. Non sono abituato all'altezza. Io guardo un video, se muovi un capo di calcio. Beh, ciao a tutti ragazzi. Ci siamo più tardi. Claudio, il capo ha battato me. Ciao G, buonanotte, se rientri dopo, ci fa piacere, va. Buona cena, me la farai. Avanti, Roberto. Ehi, ciao G, mi hai sentito, alle prossime. No, sto dicendo qua, il capo la lunghezza abbastanza. Ma carica G. Fammi sotto, G, ciao G, un abbraccio, presto. Sì, già batto, roba. Già batto, l'ho agganciato all'altro, non c'è problema. No, non arriva sino a giù con quella agganciata all'altro. C'ho qui i baiotti speciali in Teflon, che ho comprato non so di fiera, che sono proprio per esterno, vanno agganciati a, non sono affrettatura, vanno a innesto, capito? Perdita zero. E quindi va bene, adesso dovrò prendere più rimuovo, ma comunque già va bene. No, ma ci vediamo un attimo, non siamo andati via poverte, non siamo andati a fare un'altra commissione, e poi. Ma poi io mi volevo anche organizzato su, e siamo saliti, attraverso la mansarda e poi il parco antenna. Quando se la cava bene in altezza là. Quel rotore che ti ho fatto vedere, l'hai visto l'altro qua? Quello è bello. Quello lì lo sai cosa c'ha? Una cosa spettacolare. C'ha il display digitale, ci sono i gradi, indicati digitali e più c'ha il telecomando. Ci sono memorizzate 8 posizioni, nove posizioni memorizzate ci sono. Oppure ci sono due posizioni che te lo riporta a zero, da zero a 180. C'ha due posizioni da zero a 180 e più c'ha le 9 memorie, per dire, ti metti a 10 gradi, a 20 gradi. Quello lì era di un primo impianto motorizzato che ho, anzi il secondo motorizzato che ho avuto io, quello lì. Ma allora, hai visto quanto è grosso? Qui se non ne varrà mai così t'ammazzi. Faccio un attimo di non è il problema di scendere, il problema è che deve avere la frizione, perché automaticamente quando tu hai, per dire, stai trasmettendo a nord-est o nord-ovest e poi l'antenna la riporti a nord perché si portano tutti a nord in modo che il vento tagli. E quando c'è vento, se c'è bloccaggio rotore l'antenna non muove, non oscilla. Se invece non c'è bloccaggio rotore, succede che l'antenna si sposta a destra a sinistra, a destra a sinistra, e alla fine ti si rompe il cuscinetto di spinta, capito? E per quello molto importante è quello lì, infatti io adesso nel mio, in questo che ho preso nuovo praticamente, l'ho metto al cuscinetto piccolino di spinta. Ecco perché sto aspettando che faccia tempo bello, perché non è 5 minuti, devo piazzare la gabbiettina, metto il rotore e tutto, ma è una trozzata rispetto a quello che vuole in circolazione, insomma, di quello che l'aveva tutto. Ma va bene, ma la funzionalità io non sono mai stato un partito di antenne grosse, eccetera. Ho sempre fatto quel poco che mi interessa, ma la funzionalità. Però viene un bellissimo lavoro anche così. Ma mi approfitto e me lo chiamo a cena, va? Che va a tomare con l'aria e ce ne andiamo a cena adesso. Vi saluto, un abbraccio a tutti, se ci siete, a dopo, altrimenti tenete duro. Ciao Gianni, Antonio, Roberto, Massimiliano. Se ci fosse qualcuno in ascolto, insomma, saluto e circolare a tutti un po'. Le prime tue fai girare il bianco per me. anch'io, dai. Saluto gli amici e ci sentiamo dopo se coincide. Avanti Massimiliano. Ciao, buonasera, buon tutto, saluto la famiglia, ciao a tutti, Antonio Stacchiano, avanti Roberto. Sì, anche io chiudo adesso, dai. Ok, ciao Claudio, ciao Antonio, tutto fatto, ho mangiato un bel pezzo di tonno a Massimiliano. Ok, dai, io interrompo, però dopo non riattacco. Vi auguro una buona serata, un buon proseguo se ci siete ancora, se no buon tutto per domani. Quello è la parte mia, ciao Massimiliano, Antonio, Gianni Doppio Lumo si sta ascoltando, Claudio e tutti gli eventuali amici che non mi sono ricordato in ascolto. Ciao ciao, cuore te da parte mia. Ciao, papà del microfono io, dai, saluto a te, Roberto, seguono una buona carica e anche un buon continuo serata. A te Claudio, buona carica, magari ci sentiamo dopo se ci sentate, e anche a te Antonio Grobbe. A tutti e tre, andate tutti quanti a mandigare. Va bene, dai, c'ho tempo, domani ci passo, mettendo quella casettina là. Va bene, Gianni. Buscata l'antenna. No, Roberto, mi ha buscato lo stilo, però va bene la carica dell'antenna che non va, sganciata, attaccata. Non si può riparare. Vabbè, adesso Roberto sento che ti dà quella originale che trova di là, ti prendi quella che ti dà Roberto, ma si può sempre recuperare, magari lo metti anche un po' più grossetto, di modo che, però no, i giri devono essere qui, i giri non sbagliavi perché se no non puoi non ti rendi. Dalla gola, ha trovato che c'era la tonsillite e cose, e quindi passando sono passate via Grazia Deledda, ho preso 9 pizze e via, e siamo mangiati di chi si sta lì. 9 pizze, non lo so per mangiare, va bene già, a volte lo stesso, là. Quando siamo in tardi, magari capita che mia suocera non vuole cucinare, a volte ci organizziamo la farina, ci organizziamo le pizzette da lì di via Rosello, perché il barone diciamo abita vicino dove abita la suocera, quindi chiamiamo lui verso la tornesa e magari gli ordiniamo una ventina, capito? E lui continua la pizzeria, salta la lì e ce la porta e non ci fa pagare neanche il trasporto. Noi ce l'abbiamo sotto casa adesso la pizzeria, però ha aperto da poco, pizzeria napoletana. Siamo andati e abbiamo comprato di quelle pizze lunghe, quelle che fanno le giro pizza, ce le prendo, quelle pizze a metro. Abbiamo fatto qui tutti i gusti, però pecca della pasta, boh, non hanno fatto tanto pubblicità, pulcinella qua, pulcinella là, boh, si fa la pasta fino al centro e poi grossa e là. Vedi, quello è un brutto, perché a volte c'è la pizzeria sotto casa e preferisce andare da altre parti a prendere la pizza perché quella c'è sotto casa fa schifo, e capita sempre così. Quella che c'era prima era buona e si è spostata. Praticamente io telefonavo, mi suonava il campanello, me la metteva dentro l'ascensore, io li mettevo i soldi e li metteva le pizze. Tutto in ascensore, senza guardarci nemmeno in faccia. Più il combo di gusto. Vicino a casa tua, la via che scende lì, dietro la questura, mi sembra che lì ci sia una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria, una pizzeria qua via Pulico, ma sei... dietro lì, non è, cioè non è la via che scendi, diciamo, dalla rotatura dove c'è quella chiesetta, continui ad andare verso la questura e poi a un certo punto devi scendere in quella via a destra, giusto? Sì, sì, via Lucio Cervi dovrebbe essere quella lì. No, no, no, già, non è via Lucio Cervi. Via Lucio Cervi è una traversa che è di fronte alle Torri dei Pini, via Lucio Cervi. Ora non lo so, vabbè, ho capito comunque qual è, praticamente scendendo dritti dai giardinetti verso giù. Bravo, quella via lì, in quella via lì c'è una pizzeria piccola e me, però le fa buone. È pieno di pizzerie vicino a casa, siamo circondati, c'è Samuele Gio che sono tutti ragazzini sui 22-23 anni, tutta la pizzeria è così, alla casa ci sono ragazzi giovani, chi prepara le pizze sono giovani, i pizzaioli sono giovani, chi le porta sono tutti giovani, sono. E ne fanno veramente buone, a fianco al tabacchino via Baldetta. È positivo, positivo, sì, ma di Roma ce ne sono parecchi di pizzerie. Comunque io già queste pizzette di via Grazionaletta non le ho mai prese, non le ho mai prese, sono curioso qualche giorno le prendere per vedere com'è la tua. No, a me già mi piace, a me piace, io ci faccio mettere un po' di origano, dopo che le fa li faccio mettere un po' di origano. Ma sono buone, a me piacciono. Però lo sai cosa c'è, Massimiliano? Il trucco è mangiarseli subito, se non te le fai involgere perché poi diventano molli, capito? Suda come il vapore acqueo, vale la carta, te le fa molli. La cosa più bella è per dire prenderle e mangiarle subito, perché sono belli croccanti, belle. Dopo ci mette un po' di mozzarella, capito? Qualche giorno magari così anche sul prezzo, ho capito già, ma io te ne mangi una, due al volo, tanto poi la notte te ne va a cenare, quindi fai bene con quello, ma tutto poco guarda, perché me l'hanno parlato bene di questa pizzeria, però la verità non ci sono mai andato a prenderle, cioè a provare a mangiarle, ma... E vabbè, questa pizzeria c'è una storia, Massimiliano, non è una pizzeria nuova, è una pizzeria che aveva il padre, adesso c'è la figlia con nipote, è stramandata proprio di generazione in generazione. Sì, ma io, devo essere sincero, io le prendo lì a Coso, già in via Rosello, prima c'era il padre, quello di Cocco, prima c'era il padre, lo faceva buonissimo, adesso c'è il figlio, diciamo che ha preso le vicine a fare e le fa buone uguali. Ma io guarda, quello di via Rosero, se è quello famoso, me lo ricordo perché con mamma quando andavamo al mercato a fare la spesa, che andavo anch'io, aiutarla, ci fermavamo sempre lì, ci facevamo la pizza, sempre. La puntatina gliela dovevamo fare sempre. Bravo, così facevamo noi. Quando eravamo piccoli, mamma ci portava al mercato, sai, tutti i negozietti che c'erano lì nelle vicinate di via Rosello, puntuali dentro la pizzeria, ce la servavamo una pizzetta, 4-5 le prendevamo in più per portarla giù a casa, e niente, va, la puntata lì si faceva sempre. Lì è il forno che c'era del pane, prendevo il pane in quel forno che c'era, adesso non so se c'è più, ho perso un po' tutti i contatti, prima lì c'era un forno del pane, te lo ricordo. Sì, adesso ce ne sono due già, ce n'è uno vicino a quello che vende roba in calzolaio, fili e cose così, e l'altro proprio nell'angolo, ce ne sono due. Allora, quello che vendeva roba in calzolaio chi era? Cucco mi pare, o no, Cucco. Questo non me lo ricordo, no, quello del calzolaio. No, non me lo ricordo come si chiama, però stiamo parlando della stessa persona sicuramente, perché mi sembra che come calzolaio vendeva c'era solo lui. Era quello lì e quello di via, ce n'era uno anche in via La Marmora giù quasi all'incrocio con via Rosello, un po' più su, Cioè, uno si chiamava Cucco e l'altro Cicco. Lo so perché mio padre si serviva da uno o dall'altro, poi qualcosa poi la prendeva in continente, però la maggior parte della roba la prendeva qua. Positivo. E poi signor Anziano che c'era lì quasi la fine di Gio Rosello che andava al formaggio dentro quella camera col portone tutto sfasciato in legno finalmente. E a voglia, che figli sono quelli che vendono le arance, insomma, anche lì ci fermavamo a prendere le arance, anche il formaggio lì prendevamo, e ho capito, quello era il padre di quelli che vendono le arance, chi si fradisce. È positivo, quello lì, poi c'è una consigliere che vendeva le cose, ovviamente, che ci aveva tutto il placcaggio colorato nelle blu. Vendeva che cosa? Le coppe, c'era un negozio che vendeva coppe, vongole, solo coppe e vongole vendeva, non aveva pesce, di produttore sempre. Adesso non so cosa c'è, ci sono i cinesi che hanno cercato di mettere le tocche. Sì, Gandomai, sì, ho capito. Gandomai non si muove i cinesi, altri ribatti, come ti rubri due singoli su crescenti. No, la compagna la fa con tutti i menù cinesi, fa con tutti i tigli tutti i cinesi, sassari. Oggi adesso ci sono anche le donnacce, quanti li chiamano cinesi. La Baldrac. Bravo, la doccoletta. Non ho mai visto io, però me l'hanno detto che c'erano, non le ho mai viste ma me l'hanno detto. E avevano scoperto anche una casa d'appuntamento di cinesi, sai dove? Lì a Canica, vicino alla TPB, avevano chiuso una casa d'appuntamento e questo qui parlandone con un altro ha detto catta proprio va chi va più va che praticamente aveva ciappato di Savona e che andavo quasi tutti di lì a Milano Sarrato. Come poi ce ne sono solo quella casa, poi ce ne, non so per sentito lì, poi ce n'è una vicino dove abita la Parino. Casa d'appuntamento? E allora, ma lì c'è una parte della gira della Giave. No, io non è frequento, non lo so perché non è frequento, non ci sono mai andato, addirittura mi dà anche un po' di fastidio, queste persone qua mi fanno pena, dico la verità, perché tante persone sono anche costrette, tante ragazze sono anche costrette, le fanno venire con l'inganno qua e poi le costringono a prostituirsi, queste cose a me mi fanno male, mi dà fastidio. Vabbè, già, uno c'è sui gusti, cosa deve fare? Purtroppo così. Che dici va a Siviliano, la gente che è all'ultimo stadio, secondo me, o i viziosi, oppure dici che proprio non hanno affitti, non hanno amori, non hanno niente e si attaccano a queste cose. Ribaltoni da ciappi sempre, perché noi quando eravamo ragazzi, tipo a 20 anni, andavamo a sfotere così. Pastori di quelli con i gambali, cioè quanti ne trovavamo, una volta aveva, ci ha fermato uno e ci ha detto all'ischi in dieste s'avviga niente, e questo amico mi ha detto no, prenda niente, te grazie, prenda niente, gusta guzzare. E tu sei fatto tutto lui, e questa mamma che è trasformitata bra, targata nuvolo, ne è sceso con questi pantaloni fustagno di quelli verdi, e con i gracchi. Ma poi lì ce ne sono di tutte le maniere, già, ma cioè, quello è uno schifo davvero, va, è uno schifo davvero. Eppure a volte è capitato andando via da casa mia suocera, così sa, anche con la moglie a passare così, per vedere gente conosciuta, ma gente per bene, gente con i soldi, già, lui lascia più di là, meno di un fattore, guarda. Ah, sai una volta cosa mi è successo? Quando andavamo così a sfottere, a chiedermi quanto prendeva, così da ragazzi, per ridere, una volta è successo che ero con questo amico mio, casa, mi ha detto già non ci posso credere, è il mio principale, quella è la macchina sua, o non ce l'ha lui, aspetta che guardiamo bene, passiamo vicino della rete, lo principale. Se è proprio dicendo già, vabbè, io non posso dire niente, no? È rimasto secco. E a volte Massimiliano, te lo sto dicendo, magari gente depressa o che sente il bisogno di affetto, di vabbè che una prostituta non ti può dare affetto, è tipo è molto fredda, molto buco, non vedo, è una cosa animalesca. La mamma, la amica. Con questa paura di prenderti malattia, di essere chi suicidato, sono bene di malattie, dopo sono anche queste negre per dire, c'è anche malattie tropicali, non bisogna fidarsi queste cose. E poi ti ho fatto anche una pattuglia, con questa roba, cioè che c'è alle macchine, ecco, per darti una in mezzo. Ma sai che una volta assistito a un incidente stradale, stavamo tornando dal vero, questa praticamente questo qui alla rotatoria dove c'è la centrale del latte, lì si è sbattuto con questa macchina, siamo fatti veramente male, le macchine distrutte, questo e quell'altro, e questo qui uno era con la prostituta a bordo, e la prostituta è scappata, era tutta sanguinante, l'hanno vista questa coppia di ragazze che stavano tornando a ballare. L'hanno fermata e detto dove stai andando, portatemi a casa, no ti portiamo all'ospedale, no a casa, e si è fatta lasciare prima del portone questa prostituta di casa sua e non gli ha fatto vedere manco dove abitava, capito, per non dire nulla. Beh, fatto sta che poi sono tornati indietro questi ragazzi e questo signore gli ha detto ma era solo lì, e gli ha detto sì, ma la polizia dice a me non mi risulta, perché questa coppia di ragazzi gli hanno detto della scena, no, che era con questa prostituta e che lui dice l'avevano accompagnata loro, gli hanno chiesto dove era più o meno la zona, sono andati a cercarla eccetera, dice però voi dovete convincerla perché secondo come va può morire di sanguata questa qua, c'è una tutta piena di sangue, di tagli grandi, di coso, e questo qui poi è arrivato il fratello di questo qua, cazzo, una figura. Ma figura, per mamma mia, che paura, guarda. Oh, già, io qua ho tolto la cena, va. Ti lascio un secondino e faccio una coricetta veloce e poi riprendo, va. È pronto a mangiare. Ciao, Massimiliano, buona carica, allora. Andà bene, dai, vediamo un po' se c'è qualcuno, se no spengo tutto e vado a guardarmi di Max. Quando può già trovare tutti, va, sta funzionando. Io è pronto, va, mi stanno aspettando. Ok, va, ciao già, buona cena. No, tu l'hai già fatta. Sentiamo dopo se coincide, va, ti saluto. Ehi, vai tranquillo, Massimiliano, ciao, buona cena. C'è nessuno? Claudio pure ad inteso. Grosso, giro con i canali, però va bene. Quello lì, una volta che vai da Giampaolo, da Alfonso, da Fabrizio, ma da Fabrizio che da... Non la sorvegliamo, si fa i memorizzi tutti i canali che ti interessano, capito? Allora, dopo dando il giro lucoso vai direttamente ai canali, sei a posto? Sì, sì, sì, sì, no, ma non è un problema. No, funziona bene, poi è dopo l'uomo, sembra che stia uscendo dal negozio. Ci sento benissimo, tranquillamente, 100%. Ciao amico, migliora un po' per il tempo. Misuriamo l'antenna di un paio di metri ancora. Sì, lo devo fare, lo devo fare, lo devo fare. Sto pensando di infilare un tubo dentro un tubo che c'è già. Capito? C'è un tubo che spunta dal tetto da me. Devo trovare un tubo che abbia leggermente la sezione più stretta e io infilo dentro. Capito? Devo vedere a quanto è questo tubo che tu c'hai, che c'hai. Capito? Da quant'è? È grosso, è tipo un tubo innocente, è grosso. Devo misurare il calibro. Se è un tubo di quelle misure lì, ci va un tubo all'interno, per esempio, capito? Una riduzione, che tu puoi magari dopo fare dei buchi da una parte, devi fare una saltare un dado e ti entra un bullone, che praticamente quando tu vuoi sollevare il tubo, con quel bullone li stringi e frena il tubo che c'è dentro, come ce l'ho io, e dopo tu lo puoi fare come vuoi, lungo, alto, la tua misura che vuoi, perché dopo tu stringi questi bulloni. Sì, voglio fare così, adesso domani mattina non so se ne aggiungo un'altra sopra e lo faccio, perché è bassa, i due radiali sono, l'ho messa in modo tale che rimangono in mezzo all'antenna ai televisori, è bassa. No, questi radiali dal piano del tetto, come vuoi fare così, almeno io dico, ma pure i 3 metri buco che andrà meglio, non i 3 metri che deve andare a bere. Io ho un albero in alluminio, va bene l'alluminio, sì, perché la staffa che ho della parabolica è in alluminio. Io ce l'ho un palo lungo, sarà 4,30, e 4,30, sì, perché ci armavo l'albero della luce, 4,30, un palo lungo, mi sa da dove uso quello. No, l'alluminio è morbido. L'alluminio è morbido, lascia perdere, già c'è l'antenna d'alluminio, metti un palo in tubo d'acqua, un tubo in innocenti, in ferro, quelle cose lì, niente, prendi un tubo unico, che sia ben ancorato nel muro, ok, con le staffe quelle che tu ritieni opportuno, dopo ne metti un altro tubo dentro, che scorre, che scivola dentro, che tu lo puoi sollevare, così che quando devi fare delle manutenzioni, lo fai intanto che te lo faccio vedere quando capita come devi fare, si fanno due buchi nel palo, si saldano due bulloni, si fa saldare dal vicino due bulloni, perché io non ce l'ho la cosa, pensavo che quello l'avevo fatto a filo, secondo com'è, e dopo entrano questi bulloni, da 8 vanno bene, da 8 chiave da 13, quando questi qua entrano dentro il buco, che dove c'è il bullone che è saldato, che praticamente lo fa vitare, no? Lui frena il tubo che c'è dentro, ne metti uno a parte e uno all'altro, due ne metti, uno spostato dall'altro, capito? Non tutti e due nella stessa asse, uno più in su e l'altro più in giù, non tutti e due nello stesso senso, però uno da una parte e uno dall'altra, ma diciamo, ti spiego bene, se quando è quello che faccio vedere com'è. E tu non ti fai nient'altro che dopo, quando sei su, tirare il palo con l'antenna, tirare il palo verso su e stringi questi bulloni e lui rimane fermo, metti il tirante dalla parte bassa e dopo sotto le monti l'antenna della parabolica. Lo so, ma questo palo che ho va bene perché flette, non ha bisogno dei tiranti, capito? È fatta apposta, è perfetto. Ci stavo pensando, l'ho anche visto, è perfetto. Ora devo vedere un po' solamente se coincide su, capito? Non lo so, cos'è della vela di lui, sempre. Sì, ma è ferro, è alluminio, sono di quelli vecchi, capito? Che io usavo per tenere la sacca dritta. Sono di quelli vecchi, in alluminio. Non lo so oggi, perché... Io non lo so, avrei fatto il palo direttamente di ferro. Vedi tu cosa fare. Cioè, insomma, se trattano la tela che deve rimanere fuori, al vento, all'acqua e tutte queste cose qua. che è molto essenziale che sia fatto bene tutto lì. E i tiranti, se c'è fumetti che qualche tirante ci vogliono. Appunto, quell'albero lì, l'albero che poi è un faro, non ha bisogno di tiranti perché flette talmente tanto quando c'è vento e poi l'acqua non le fa niente, è fatto per stare con l'acqua salata, quindi figurati. Proprio quello non è un problema, e il vento lo tiene benissimo, perché è un faro che flette e non ha bisogno di tiranti. Però quando lo vedi piace pure a te. Sì, vabbè, qua la luce, sentiamo un occhio. Comunque, le piazze come ti sono dicendo io, le fanno scorrere all'interno, oppure se è abbastanza lungo, e se è troppo sotto lo stesso palo, le monti l'antenna della parabolica, come ho fatto io. Io in un'antenna che c'è fuori, ho le antenne della TV, le ho messe sotto sotto, nell'antenna più sopra possibile, almeno un paio di metri mi sembra che sia comunque. Ma disturba solo un televisore, quello di su, perché quando sollevo molto, capito? Quando sollevo molto disturba solo un televisore, perché gli altri televisori che c'ho giù, nel piano di giù, non le fa nulla. Caso che non disturba solo chi si vive sopra. Quanti volte col digitale terrestre a disturbare il televisore? A fuori da così. Se vedi la mia antenna è proprio attaccata alle antenne, non disturba niente. Vabbè, il televisore non è di quelli nuovi nuovi, ma non è neanche di quelli vecchi vecchi, quello che disturbo, capito? È sempre uno schermo piatto, però di maduri, della Samsung, sempre schermo piatto, però di maduri. Invece gli altri, quelli che ho, Sharp, tutti gli altri che ho in cristalli LCD, ma di gatto, se ce ne sono altre tre qua giù, di quelli non le succede nulla. Su a quello di su invece drammatica la figura, la facilità coriandoli. È strano però, strano. Ma guarda, io è che me ne dimentico sempre, mi prendo l'altro televisore che c'è nell'altra cameretta, lo salgo su e provo a vedere se è cosa, so che, delle, che non è che delle, la TV d'arte è molto sensibile magari. Perché col digitale terrestre è strano che insomma che disturbi, lavora proprio sul digitale, la 27 è un metro doppio nudo, è possibile che disturbi, allora che il televisore non abbia ancora un tubo cattolico. Ti sto dicendo che è grosso come televisore, sono di quelli che hanno sommani, no? Quindi vanno da retro, non sono piatti, quindi può darsi che sia praticamente come ti sei detto tu, a tubo cattolico, oppure che magari è nel piano di su e di lì prende magari la, che non ce la fa, che praticamente è giù con l'altra discesa perché c'ha due uscite l'amplificatore, in quelli che scendono giù magari sono distanti e non le fa nulla, quello lì invece essendo che è praticamente lì, a pochi metri, magari quello lì oppure via degli altri del televisore, ma allora, cosa fare? Prendere il televisore uno di qua e portarlo su e provare, tutto lì. Sì, sì, anche, anche. Lo vado dando atto, Marò, se no non lo vado. Fatti occupare il televisore lungo. No, non gli fa nulla, si vede quando si vede sul televisore, mi. E a schermo piazza, mi capisci? Se per questione di spazio ci serve come di questi appunto LCD o il plasma, quelli non prestano ormai, mi sa che sono passati, adesso ci sono questi LCD e anche addirittura LED, se fai la LED va, sono fenomenali. Ma sono comodi, ripeto, perché li puoi appendere anche a muro e so diventare un quadro, pochi cavoli, non ti prende spazio e tutto. Oltre sicuramente alla capacità della soluzione, adesso anche della risoluzione dei colori, comunque sia delle immagini, queste cose qui che sono molto evolute. Non ho da che vedere quelle cose di prima, giustamente. Però i colori, la verità, si vede bene. È grande, perché è grande. No, io provo, perché ne ho anche un altro, lo stesso, un pochettino più piccolo di quello che quello dello stesso scudo, sarà a 32 in sala dove mangiamo. E ne ho un altro conservato che era in camera di mio padre, che era da 19, sempre così, che non lo stiamo usando, l'ho conservato dentro l'armadio, tanto in camera lì ormai non c'è più nessuno, e l'ha levato. L'altro è una camera della sorella, lo stesso è LCD. Quello che ho in camera qua, lo stesso è LCD, lo Sharp. Quello che ho dove ho il barattino, lo stesso è LCD. C'ho anche il televisorino lì piccolino, e ogni tanto lo seguo qualche telegiornale, no? Mentre faccio qualche lavoretto, mi fa compagnia quando non c'è nessuno. Però qui non succede nulla, ripeto, solo quello di su. E ho capito, capito. Andare, andare. Oh, a me non disturba niente, nessuno. Vabbè, io ho tutti i televisori a letto, quindi magari è un'altra cosa, no? No, l'oggetto è un'altra cosa, però mi sono dimenticato di dirti che disturbo solo quel televisore lì, e quando trasmetto con l'antenna dove ho sotto montato i televisori, le antenne della TV, capito? Perché se modulo con l'altra antenna dall'altra parte non succede nulla, capito? Con la gran play piccolina che ho, quella così giusto per scassettare qua, no? In zona, già più piccoletta, lo stesso trasmetto con quella, non succede nulla. Lo fa solo quando trasmetto con l'antenna dove ho le antenne della TV, però ripeto, lo fa solo nel televisore, quello che c'è su, poi giù nel piano di sotto non succede nulla. Vabbè, va, vediamo un po' così, perché appunto vuoi entrare. Va bene, non c'è su. Io vedo domani la sepolta, se lo vorrei tu, lui verrà a scamare, mamma mia. Lui ha già fatto nella pattuglia, la macchina pattuglia, cioè si è aggiunto al calo preso un lucoso, ma non la mora. Non ho capito, dimmi. Stamane era sopra di cita, di zinco, si era travagliato, dovrebbe la macchina alla battuglia, ed era lo ghiaccio me lo preso, pariva imbalsamato. E beh, quando fa bella giornata la notte ghiaccia, adesso ghiaccia, no, non usa. Io rientro, tu su una c'è lavorare. Via, andava a vedere. Ti mangio un poco, chi è che vuole entrare? Non so, vabbè. E oggi adesso come c'è anche il tempo migliore, il prossimo mese sempre a marzo che cambia l'orario. Il 21. Il 21? Buono allora, dai. Andate, dai, così allontano il giornato. Sì, il 21 marzo. Ci sto perdendo il taglia 1, mi. Tutti questi casini reali TV. Si fa un disagio. Se no ti fate la preda di Busa. Cos'è lui? Abbiamo parlato in due. La bandiera Italia 1, reali TV. Fate vedere un po' di citazioni un po'. Infatti i video hanno naufragato nell'oceano solo come dire se stesso, che è stato rubato un'altra su Burlanca. Lui salvato come salvasse un terremoto. Beh. Oh, è meglio. Come hai più disastri? Gianni? Non più room, ci sei? Claudio, non so, boh. Roto quadrato, gli attacchi qua Roberto. Un ciao. Ricciò anche a. E oggi, avanti! Oggi ti saluto di Lucca, no? Ma allontanato sei, è bello! Però no, io mi ero accorto, infatti era scoraggiato, forse anche troppo. Perché quelli di Sassari me lo aprono, no? Come devo segnare salire? Però l'ho aperto, mi ho sentito. Qua siamo, qua. Ehi, un attimino, riprendo subito, ciao Lu, un attimo. Per un incendio, Luca. Per un incendio magari, mi la giungo che c'è la macchina, dice ricevitore, però io in giovedì non vado a Sassari. Casomai domani posso, se Gianni è a travaglio, posso una pasta, se avete modo di vedervi voi, magari, non le ho le domande da Edo, quando verrà bene, magari le lascio a Edo che se li faccio avere quando verrà bene. Sì, allora, ci vediamo con Gianni, la buia. Non c'è problema. Ma non è la tua. organizziamo. Allora mettiamo un caffè con Gianni. Tanto voi, va la domenica, se vuoi salire. Cioè, non andiamo via di mi prende, saliamo al quadrato e ci prendiamo un caffè. Sì, infatti io la prima occasione diciamo pure una domenica, adesso questi giorni qua mi viene un pochettino male la verità, però salgo anche perché devo far vedere una cosa a casa, un microfono, devo tenere un bel mobile, so, faccio un po' quello che diciamo di due da così a tempo penso giù per va a titolo pure di dirigimento di impegnato un po' quello da vedere se si riesce a risolvere qualche situazione, dice così. Io sono fatto a vagliare per bene, come tu sei chiede. Comunque, dice così, mi ridò con il da a Gianni, per dopo. Io vedo mai, lo utilizziamo domani, la fotografia in macchina. Ciao. Guarda, sono curioso. Quello che c'ha i led bassi, quello che vogliamo vedere, sono curiosissimo. Io sicuramente, non te l'ha già detto lui, ha fatto lo temporale. E a 4, solamente visto che era sopra, compreso, sicuramente è falcuta, qualche cosa, come ti hai detto tu, sicuramente, va una sottoalimentazione. Poi c'è un diodo, capito, oppure è un condensatore, vale 1, 2, non lo so, vabbè. Ma qui il musicismo a fare, poi fa il caso, li smonta, vengono i pezzi che mi seguono. E come se no? Io di Dio di queste cose in altro bisogna vedere la capacità e il voltaggio del condensatore capito? Ma una ciaffa uno così a parte anche tu vedi che basta pure a sapere a vedere uno di queste cose capito? Quindi la stessa che poi sta non è che sta gente sarà anche da dentro. Devo fare un paio di commissioni chi visiona al corso voglio fare tutto quanto un corso un peso organizzato e farlo magari una dica su Guliparo che non devo travagliare che ci sono quasi impegni di mattina e di sera organizzare e fare tutto quanto in pare tu non c'è problema lo sai non problem dando bene a me senza messa ma sai io ma sono solo curioso no? Ma non ti diciamo di più tu, di chi si vuole prendere tu il danno. Ma non lo dici manco io, non è visto, Ma comunque qualcuno mi si apposta, più di uno, Ancora. Guarda. Ma te l'ha detto, ti avrà che ho la testa, no? Ora la tua mano, non mi spieghi, non la bocca di un piede, Ecco, tu mi rivelato un danno. Smontati, la sua da comparare, meglio nuovi comunque già di conversatori, sempre meglio nuovi. A chi se ci sono noi è buonanotte, ma io appena usurati, non andare bene. Se mi chiami noi poi sarei 20 centesimi, 30 centesimi in uno. E si cambiano. Sì, quello di lì cazzo non è visto dopo il discorso, ma fatto, perché uno non è che si è identificata con una pancia di quella uscita. Andare così, allora mi hanno già commentato uno con un filo che esce direttamente da due cose, in tre, invece l'altro va a spinotto, infatti faccio dei buoni sul gavetto, la devo zicare, la devo buttare sul gavetto, è un gavetto tipo che sei di radio, no? Che rappresenti che sul filo chi entra a due. E come si deve andare, dove? Uno è così e l'altro invece verrà direttamente zaccato da Trento, preso direttamente con un filo. E là ragazzi comunque quando ci va giù io qua. Sì, va però no, quello non è un problema. Capito? È da vedere. Poi quando vuoi salire, poi anche a Giampaolo e ci prendiamo un caffè. A quadrato, la domenica la giornata, tanto via là iniziamo a fare i di dimmi. Se vuoi realtà. Se l'appuntamento, tengo l'appuntamento con Gianni, e uscire un caffè. Via, e infatti mi, ma come stanno i risultati, si fa di bulgazzini. Perché mi fa caso non c'è questo diavolo di Rufino, che va io sicuramente che si verrà di buono impegnati nello stereo, ogni si così così. Tu operai uno giusto a provarlo, si è mai, mai compreso come te, di chi si entra tu e me. Non ti preoccupare di lui. E devo operare la polarità, vabbè, non ti preoccupare, già andiamo all'arancio. Al limite lo saldo un calcolo diretto di via. Tranquillo, già ti ho figli, dai televisori vecchi, a voi dai cigaretti. Di chi si da salvare, Luca, è detto, è una piattina che ha due fogli, tanto è polare quello, non ha problema come lo giri, non è che c'è il positivo e il negativo, quello come lo giri, come lo metti, c'ha una posizione più obbligata perché c'ha un invito da una parte per metterlo, ma non è perché per invertire, capito, giusto per farlo, per farlo entrare per non uscirne. No, quindi sono di quei cose che si trovano dietro quei radioni che si possono levare dalla spina, tu li pieghi, tutto lì, quello lì. No, il telecomando già ce l'ho di quello lì, perché il suo è proprio originale. Nell'altro invece è quello che praticamente i LED sono deboli. Quello il telecomando non te lo posso dare perché è abbinato adesso a quell'altro decoder che c'è su, che erano uguali, che non si erano quel telecomando. Praticamente erano i due decoder e i telecomandi. E sono rimasto con un decoder e un telecomando, ho preso. Problema, Gianluca. Sono curioso. Ma non mi occupi di quello, non lo so. Quasi poi siamo detto una cosa che non vedi, capito? Però vedere l'ingresso di alimentazione. No, c'è la tassa, siccome sono divisa, secondo dei digitali, sono divisa, c'è la telecomando da una parte e l'altra, quella, vabbè, dove comanda il telecomando e perché ballacche. È divisa, no? A me interessa vedere quella di alimentazione. Via. No, potresti che sia anche quel trasformatorino piccolino, quello che c'è all'interno, che si affastizza, anche tu, sei un trasformatorino che non mi lo leggo dentro. No, non si usa così questo, fidati. Allora, Eugenio. Sì. E quindi cosa? Dico, ti salutano, cosa si vede? Stavo scacciavitando il baracchino nuovo. Però l'altro amaco trappano ancora. Ho usato il trappano con la punta da 12 su un trimmer. Oh, io ho mangiato leggero, due uova con le cipolle, mi sono messo due fette di sottilette e più mi ha aggiunto una puntina di ketchup. Adesso mi sforzo un attimino e mangio una razza e una banana. Questa volta sono più che leggero. No, buono, andate. Buona vita, tu che mi piace, buona meglio, vieni. Così, un poveretto di bagno, azoto, due uova, due fettine di prosciutto e due di fontino, ma ti sei detto. Allora poi due spenazzini, riuscivo a mangiare un pane. No, adesso non sono ketchup, più buono, più gustoso. Proprio una panna è da ridumi. Le fette di cosa, poi trovo la vita, fa di un buccio. Ma vediamo, ma non ho mai messo, comunque. Uova, cipolle. Io le mangio, senza cipolle non ti rimangio, non mi vuoi fare, invece con cipolle te ne mangio anche 3-4 di più, in generale sarebbero due. Sì, una cipolla mangio, però con la cipolla le mangio anche se ci faccio meno i piselli in bianco. Buona riviso, ok? Sono buoni gilotti. Ma piace un bel. Sì, no, ripeto, senza cipolle no. Siamo capelli, senza la cipolla non rimangio. No, mi via, non si fa, non si fa. Poi ci guardi o te riesci a mangiarla? Ciò che... No, due ne ho messo già, due uova. Sai che a proposito di uova, ho sentito tramite questa persona qua, questo tipo ha fatto una scommessa, se ne ha mangiati 30. 30 o 40, adesso non mi ricordo, ed è morto, lo sai. Io credo che sarà stato un po' per ora 2004. Adesso, 30. Ci aveva mangiato 3 uova di struzzo. No, 30 uova, Gianlu. Ma ci siamo questo tipo, siamo entrati in chat. Ma lui ci mangia sempre 3, 4, 5, anche 8. Quando la uova si gira, va. E se ne mangia. dice che ha paura. Immagini tu, Bussia, che un uovo distrutto, non me la metto proprio, come ti ho visto un documentario, una cosa. Normalmente si equivale a 20 uova di gallina, o 10 uova di gallina, non me la metto. Comunque, capo, un uovo distrutto è fenomenale, dice che pure un bel buono, io non ci ho mai mangiato, dice che è buono. Tanti tipi di uova mai. E vabbè, dai, 5 minuti, 10, 5. Taglio io e poi mangio, dai. Poi alla fine ci vuole un succo di frutta, se vediamo se la pera o la pesca. La pera devi farlo, se ti rimane in ranzo, via tira la pera, così hai fatto la banana, la ranzo era pera, ho preso, hai fatto una bella Macedonia. Sì, no, tu hai ragione, però è una cosa mia e lo voglio fare. fare perché è una cosa mia. La devo trovare solo... C'ho già la foto, però non so quando il contorno, la sto cercando. Io cercando da tu quando hanno da visti, che ti rubate le tue ritenete cosa, come che si può fare. Non ti preoccupare, che già ti rete dei diritti. Prego. Sì, ciao Massimo. Ciao Gianluca, buonasera. Qua non c'è nessuno, la cerco adesso. No, già vi siamo, siamo già in quattro con te qua. Un attimino Luca si è pushato un attimino che mangia una banana, non so cosa. Ah, il bar che si mangia. Il Guccucci. Tu, Luca. Eugenio pure, avanti Eugenio. Sì, ah. Ciao my friend, tutto a posto. Tutto a posto, un rapporto, vai. Tutto a posto, è niente a dire. Allora, tu domani mattina libero sei? Io? Tu, Gianlu? No, sono qui in travaglio, però già so quello che posso torna. Va bene, devo portare con l'antenna. Non è un problema, se tu vuoi venire a fare ti dico in di sopra tu vieni, compreso? È positivo, va. Vabbè, tanto poi ci trovo la tecnologia, ma noi ci facciamo un caffè la sera. Sì, sì, non c'è problema, mi vieni con Eugenio, tanto Eugenio già lo sa, siamo in pari, siamo in travagliemmo, travaglio mi pare. E noi va dentro? Proprio assieme, tu sei una guardia, io sono un portuale, tu sei un ricco, io sono un poveraccio. Non sei un ricco poveraccio, perché siamo travagliemmo in pari, siamo travagliemmo in posto di pari. Vabbè, non avete molta vecchia, cosa mentre quel costo, fa dirla a Massimiliano, trovagliamo lo stesso ambiente, ho preso. È positivo, va. Tu non dire che sei un tipo culturale, e tu non sono mai culturale, lui a me posso andare a prendere le porti, capito ormai. Sì, sì, no, ma Puglia, Puglia, di Puglia già entra nel ghizzo e quando deve travagliare domenica, travaglia domenica, di sabato, come ci siamo noi. Noi però siamo un po' più particolari, eh. Noi si può dire che siamo H24, che poi travagliamo 24 ore, non tutte 24 ore, ma che siamo a zona, però travagliamo 24 ore e 365 giorni all'anno, da, capito? Sì, sì, ho capito, Giallo, sì. Tu, oggi, a che ora sei disponibile la mattina? Non so, intanto l'orario. Però quindi tu sei mattutino, nel senso che, per esempio, qui stamattina ci siamo parlati con Claudio, io alle 9:20, alle 8:30 stavo scendendo a casa. E quindi a che ora sia, produttore? Sale 9? Da chi? Ma a Cagliari è molto d'ora. Io vado a 8 minuti sono lì. Ma non è bravo, adesso è 9, lì c'è come da 9. Tu dammi l'ora, tu vai a mangiare, non c'è problema. Ma non esagerare, eh. E intanto io, chi sono su che figli? Dammi l'orario e ci incontriamo. Ma invece ne fa meglio, dai. Speriamo che se mi chiama a lavorare domani mattina con lui vado a lavoro giustamente. Se non mi chiama con lui, io verso 8:30, non verrò tanto, sarò giù a Portotone. Ho già preparato oggi la tabella, la pappa, e tutto. Sì, d'accordo, d'accordo. E dove ci troviamo? No, non qua. Mi ti fai dei viaggi. Io mi devo portare un'antenna a Giampaolo. Ma cioè, intanto tu devi fare un attesto verso Bucellona, no? Il governo ci ha fatto il chiamato distributore. Sì, ma poi io vado a trovare mamma, capito? Quindi... Hai appena fatto, va bene. Hai appena fatto a Giampaolo? Ah, va bene, ci troviamo al mare, ci prendiamo il caffè prima, va. Ci prendiamo il caffè, poi possiamo andare a Giampaolo. Passiamo anche a Gianluca, no? Sì, sì, intanto... non c'è conveni che vieni da poi che hai finito lo sbarco, compreso. Ciao, ciao, ciao Silvia. Ciao Normano, buona tarde. Eia, mamma mia. Mamma mia, la zioda Riotti. La zioda Riotti? La zioda Riotti, Giuditta, mangiala, mamma mia. Poi c'ho fame, come aggiunta. Tu non se ne mangiate, va, c'è un minuto di occasione. Mi ha portato un po' di giunti, la telefono, lasciami il capo. Niente, già si sente. No, ancora ci dà, dai. Dove era la mezzanotte di luna? Allora bisogna farla, mi poveretto scaricare un po' d'adrenalina, almeno lo sonno. Oh, ma qui ci hanno messo un po' tardi, capito? Via, quindi non si sono più facili. Ti copre quasi, Massimiliano, quasi. Non capisco niente, è tutto. No, non ho capito niente, Massimiliano, vabbè. Pizzina, dove va? Miorita, da Giuca, così, avanti, oggi. Stavo dicendo, Massimo, allora cosa facciamo? Dove ci incontriamo? Sì, mi ha sentito Eugenio. Cosa no? Eugenio non hai sentito cosa ti ha detto. No, non l'ha detto. Ho detto, a che ora ci troviamo la mattina? Ma io quando ho fatto la casa ti faccio uno squillo. A me sono come un quarto. Vabbè, facciamo le 9:15 alla ESO all'entrata del Porto Torres. Facciamo due. Se c'è qualcuno che mi serve una capi 12 nuovo 10 ampere 12 continui, ma funziona la grande nuovo bellissimo al metatore della ZG, se c'è qualcuno che lo vuole mi faccio un fischio. Papà Luca, no, non lo so, non lo so, tu qualcosa. Ma no, devo guardare, quelli mi hanno detto che mamma non sono venuti qua a toccarlo. E papà non ha di male troppo l'oggetto. C'è un armadio pieno di tutto, c'è un frusaglio. E non sono venuti qua a guardare quelli mi hanno detto oggi. Vabbè, va, ma va, non lo può fare. Ma ancora non troppo, troverò. Falignani. Una rete, c'è un piccolino, sarà più una cinquantina di watt, 50 a 60 watt, una cosa del genere. Non lo trovo troppo, capito, te lo non me la fatti nulla. L'unica cosa che dovreste cambiare l'elevatore però, che quello che c'è è troppo piccolo, forse non ce la fa. No, l'ho piatto in camper, qua non c'è, non ho bisogno di allineare, l'ho piatto in camper. Anche così puoi fare. Sì, magari andando un po' verso l'avanti magari si può pure un volaretto minoretto, dai, un altro alimentato si attacca la corrente a casa, ma non ha bisogno di cacciare di alimentatore e cosa si becca già uno, ha detto un BV131 una cosa del genere a valvolare minoretto da 24 watt è un signore. A voi 2001? A voi? Come ce l'hai? Il 2001, a voi. E cos'è? Un lineare a 4 valve. A me forse nulla i lineari. Già andavo così, devo solamente riuscire a sollevarmi l'antenna, poi vado bene, vado troppo bene così. Ma il tubo c'è già tutto? Ho il tubo, sì, il tubo ce l'ho. Ne ho due tubi. Però devo riuscire a trovare le staffe ora. Vabbè, con quei borsetti che ti ho detto non va bene. No, non va bene, perché uno è grosso, quello che mi esce dal tetto è grosso, e quello che io ho il tubo d'acqua a fine. Casino, allora è un casino. Va bene, di quei borsetti a stringere con la chiave, non me ne vengono lo stesso. No, però ho trovato un albero, diciamo che un albero, un tubo. In alluminio lungo 4,30 m. Se quello lì entra nel tubo che mi spunta dal tetto, entra, io buco, faccio due tubi, buchi col trappano e la tele piazzata. Ah, ho capito, si rifanno per passanti, però non avete guardi col tubo alluminio, Come? Col tubo in alluminio? Un attimo di fare. super resistente, perché ti faccio vedere, lo piego, faccio toccare la punta dell'albero, lo faccio toccare in terra e non si spacca, perché è fatto proprio apposta per UNICEF in alluminio. E l'alluminio, già fermato, ho già buttato l'alluminio. Vabbè, il discorso della massa, già l'alluminio mi sembra che già sia un conduttore, anche se il ferro andrebbe molto meglio anche per la robustezza comunque. Tanto una volta che il palo è su, quello che governa tutto sono i tiranti che tu metti, che servono per appunto non far imbarcare il palo con l'antenna e la raffica di vento da una parte o dall'altra, comunque sia, di vivere appunto l'ancoraggio. Ma io gliel'ho detto, provalo questa cosa, ma se no per andare a tagliare al toro si fanno le cose come dall'inizio, come devono essere fatte, rispettare le cose. Ma c'è appunto Budeva, la luce, dove non sia mano, non ho bisogno che sia la forza, un tubo innocente o da mezzo pollice, la cosa è. Ma c'è l'antenna che entra dentro, che fa la riduzione, che c'è quella cosa lì, e dopo, ripeto, due buone staffe giù e i tiranti, è definito lì. Ho detto che il tubo che ho in alluminio, quello lì va bene, e poi conduce pure, mi sono informato, e va benissimo. Ora devo tirare fuori quel tubo che ho d'acqua, vediamo un po' come se riesco a piazzarlo, se ce la faccio metto quello di ferro d'acqua, se no mi tocca mettere quello in alluminio lungo. Ah, ma se ti serve la mano già si fa, non è quello il problema. Ma se tanto io lavoro dentro il prossimo mese. E comunque il lineare, se mi dai quello piccolino lo metto in camper. Quello grande non me ne faccio nulla. Io come sollevo l'antenna qua arrivo dovunque. Insomma, dovunque magari no, però basta che mi sentano bene, poi del resto non interessa niente. Io basta l'antenna, che va come tagli per la propagazione. Io sono lì, fermo lì di Exi, Natalo 40 Zinco, è vero, con un microfono con l'eco, e scelgo di così, e ti dimentichi un po' carino, ho preso l'altra antenna, dopo scelgo di così, dopo il pagato di qua che ha fabbricato nell'Interland, quindi siamo noi, ti perdini tutti, tanto sei a metà carriera, di buche d'ora a metà carriera, quasi, diciamo così, non proprio, non proprio la metà, ma di buche sei mezzo. Sì, buono per buttatore, buono per tasse. Tu hai passato, buio? No. Forro, infatti, già arrivo abbasso qua da me, no? Riesco a tirarlo fuori comunque. Lui che non arrivi oggi è Gianni di... Come si chiama? Gianni... Ma... Adesso non mi ricordo dove è. Lui che non arriva è lui. Qua arriva, siete... per lui è una negativa per me, ma io riesco a farmi sentire da tutti, meno male. Qual è tu Gianni che sei detto? Ma devo che torna? No, Gianni, non si chiama Gianni, ma tu non va, forse lo conosci Massimiliano. Come gli arrivati oggi? Vabbè, forse adesso è migliorato. quanto la situazione è tua, dove siete anche più aperto adesso. A chi? Di chi state parlando? Di quello di Ussi? No, di Santonello. Di Santonello di Ussi. Gianni di Chiaramonti, finalmente si fa il mio collegamento, una voce per Bruio. Ah, sì, no, ma a me mi ascoltava bene. Mi ascoltava bene, sì, ma avevo anche l'antenna della base calamitata sopra il tetto, cioè, insomma, non gli arrivava forse anche allora per prima, però diceva che sì, mi sentiva bene. Sicuro adesso che l'antenna di musica d'abitazione, e dopo gli fai questo travaglio, lo allunga ancora di più, vedi? Andiamo avanti, ma se vogliamo, dai, facci la curva da Luca, se non lo andiamo a finire che fermo un passaggio di 15 minuti. Poi, allora, no, Antonello da Ussi mi arriva benissimo qua, come arriva Massimiliano, arriva benissimo Massimiliano. Diciamo che il più forte di Porto Torres al momento, Alessandro, siete proprio su quanti vado tratta, a che punto arrivi me quando attacchi, Giallo? Arrivi me. No, ti faccio, sei zinco. Salva a chi vuole, paghi 6-7, non so. Comunque ti arrivi bene. Tu arrivi adesso bene, la radio bella. Qualche cosa è la radio. Comunque segnale, ce lo mettono sempre in mezzo. Ma. E poi segnale, vedi che sei tu. Non vuol dire tanto a chi. Quando mi arriva a chi, non va bene di Smith, mica abbattavano i segnali. E basta la radio, come ti senti in dia, la tieni così la radio, boh. La bruci, da me è andato segnali, capito? Vabbè, fuma. Interessante parlarci, la faccio vecchiate così. Noi come ne intendo il dinamite, boh, la intendo tutti. Ma anche tu, faccio, però riesco a comunicare. Luca, boh. Ma a me mi senti basso così. No, la radio va bene, ti ascolto. E segnale uno da me, sì. Addirittura uno. Aspetta un attimo. Massimiliano mi arriva, fa Massimiliano, può passare giù. Baracchino praticamente andava giù e tu un preso là. Mi devo chiedere che io la sera quando è oppure mi c'era cinese, va come tu so cavallo, che non giù, fanno c'è chi ribusato nella cattedria nei negozi. Ma ci vanno una linea lunga, no? Ma ci ho fatto un computatore, ha già allungato un filo d'antenna. Un alimentatorino me lo ride per la ginocchia, è andato una mensolina che non si vede nemmeno. Ma allora va solamente quello baracchino, Messina di zinco, la radio è 5, 5 di radio, ma si mi fa un passaggio un attimo, giù. Poi va bene, guarda, non so se arrivo a te. Ma si mi fa qua 9 e 10, grazie. Mancariscia, un segnale 5, buon baracchino di cosa, poi sicuramente tu hai una posizione rispetto a me che dico così, non sono molto avvantaggiato, dai magari. Arrivi bene, Gallù, arrivi bene, ma sì, per tutto non arrivi bene, la radio è bella, non la vedi, c'è il posto, e ora attacchi, qui ne arrivi anche 9, oltre 9. Capito, arrivi bene, no, Massimiliano arriva benissimo, prima quando c'era la frase era molto molto più basso, poi una camera d'antenna, la caccia va di tutto, è normale, sia la ricezione che la trasmissione. Adesso mio vicino è Giampaolo che arriva basso qua, già molte volte non lo capisco, quando parlo non lo comprendo, c'è una radio forte, però è incomprensibile. È basso, ma se Eugenio è basso poi si capisce, capito? Comunque piano piano, allora Eugenio, ti attenti a casa, bene, ma l'antenna mi sta bene e poi si è a posto. Sì, e adesso è cambiato qualcosa il segnale? Quello non forse è cambiato qualcosa, adesso ho aumentato i watt. Adesso sì, Santiago 3. Beh, è cambiato qualcosa, da 1 a 3. E poi si può, che antenna sto usando? Oh, Eugenio. Una gran prima, è bassa, è bassissima, attenzione, non è alta. E la mani tu tutto, la corsa dell'antenna. Tu in casa sei di Porto Torres? Cosa? In casa sei di Porto Torres? Lilioni. Capito. E lì, non si può piazzare una manto qua, no? Si può piazzare. Io capo su piazza Dottugato, sono casa mia, non c'è. c'è nessuno che mi rompa le balle. Posso piazzare quello che vuoi. Sì, vabbè, ma non è il problema dell'antenna. Il problema è che volevo provare. Io modulavo tanti anni fa, però quando il 12 andava forte, quando eravamo una trentina di persone, poi sono andati via tutti quanti e non c'era più nessuno, capito? Adesso se si riempie di gente che c'è anche voglia di modulare e fare, allora sì, me la piazzo una bella antenna. Ma al momento va bene così, questa qua vuole solamente sollevarla e basta. Una volta sollevarla e poi vediamo un po' se c'è la differenza. No, noi ci siamo sempre, poi dipende, noi ci siamo a Sceplano, Massimiliano, Giannio, Piedum, poi entra Giulio Dollaro, Daniele ogni tanto entra, siamo tutti, dai, meno male. Non è più come 10 anni fa, ma comunque, qualcuno c'è sempre, dai. Ci siamo, Gianluca è sempre presente, sempre noi, Gianluca, perciò fa sempre presenza. E Giampaolo, cazzo, io non riesco a tindire, ah Giampaolo, bisogna pulire la posta, tu. Non è rimane che faremo, cazzo, faremo di tutti, ti siamo l'antenna. Già, così sta. Allora fermo passo alla borsa. Giampaolo, è una cosa un po' quella vergognosa, anche non è che puoi star sopra, prendendo così, quando vuoi tu e come ti vuoi tu. Una situazione un po' particolare, ma il problema va è ha un'antenna che funziona bene, ma la puoi organizzare, passa sopra e piazzarla. Da poi già verrà a vedere che c'è un po' di rinascio come te logo, ma una posizione strategica fenomenale, come pensando, come e di sopra praticamente rispetto anche centinaio di metri davanti a me. Io sono quello più lontano di tutti, ma su. Cazzo, tu cazzo il televisore sta a fare sola, ma va a far culo. Vedete adesso. Ecco, però, diciamo così, la distanza che tra me e te, io praticamente ando pure oltre che se in Daritu, sono pure in Faranda e di andare verso l'attacco, compreso altri. Sì, no, allora non arriva bene lo stesso, arriva forte qua. Però a secondo lui non mi sente bene, capito? Forse dipende da lui, da me. Ma adesso hanno con 10 watt adesso, 10, 12, insomma, non so Fabrizio quanto me l'ha portato. Perciò Fabrizio Chirigato lo stava controllando. Per quel problema di ricezione che praticamente segnali furti li sentivo strani, mi ho tutti strappati. Infatti me lo fa sempre. Non so da quella dipenda. Comunque, mettiamo un po', dai. Comunque gente ce n'è. Io la concessione l'ho pagata, io avevo deciso di staccare tutto, però ho detto, vabbè, non so che ci non so dove zio, non vado né ricca né povero, perciò non è che su, tanto mi pagano a te, sì, non è che poi ci sono toccato tanto la vettura, staccare l'antenna, staccare il capo, un casino qua. Ho taglio tutto e via, se no è un casino. Allora ho preferito pagare le cose, poi in tal caso non c'è problema, se me lo controllo ho pagato la come si chiamano, fatto il versamento, non ci sono problemi, tanto non può rimanere su. Comunque anche devo fare della cura, a sapere inizia a tempo buono, devo buttarla giù l'antenna e mettere a posto il connettore e dove attaccare il PL su, perché si muove. Se riesco glielo cambio, altro io già sono attrezzato, c'ho il trappo, la batteria, il trappo, l'abitatore, chi si dice una bomba, sa che sbucco e gli cambio il pezzo, gli metto il rivetto, c'ho la rivettatrice, c'ho tutto. Se invece gli faccio un lavoro lì così più tranquilla, e in più devo cambiare il palo, però deve essere qualcuno leggero sul tetto, uno pesante no, perché il solito Claudio mi ha spaccato per il tevole. Tieni un'occasione Massimiliano, quelle sono le tegole che si muovono, sono vecchie, ci sono cazzo, 50 anni con le tegole, ci sono 50 anni. E infatti, stavate temendo una cosa, siccome dobbiamo passare a visitare le case qua, quelle fanno le buttano tutte, le rompe a terra, fanno i tetti nuovi, e quando le fanno nuove, mi sa che solo si può più salire dopo. Vengo io, Ma sai qua sul tetto che è salito la mano a mano? Uno leggero leggero, voglio lui. Ehi, ma è il Pierpaolo? Antonio, ma che fanno loro due due due? Una vita che facciamo. Ah, ma come è accaduto? Cazzo, è più palo, ma è tranquillo, sicuro si cicla. Ma qui non la sa, E me la tende la cara, non parlo, no? Siamo i primi famati, perché cioè, non è che sia pesante, cioè è pesante un po'. Comunque, con un po' di vento, perché il giorno c'era un po' di vento, c'era Franco, Giù e Claudio, poi non sono saliti, che mi hanno pensato, no, hanno passato, senza radiali. No, tenimi la linea, cioè, mi spostava il vento, mi spostava. Ma è tranquillo, sicuro, mollo. Mamma mia. Poi cosa ho fatto? Per fortuna, non ti porti a Marocchi. Cioè, proprio lì come piove tra l'acqua, quando la metà sotto. Ho fatto un giro nel tetto, lì per fortuna si è cancellato il tirante. La faccio un capo per me, due deboli, manco mai. E anche io con gli scidi un po' qua tappa. Infatti è coperta con quelle tempole diverse, cioè sempre di quella forma lì, ma sono più grosse, rimangono. No, ma comunque ho risolto il problema. Adesso dovrei cambiare il palo, comunque, dai. Palo e ho sto cosa dal PL, e poi il resto la posta. E tararla, perché al 45 c'ho stazionaria. Oh, ragazzi, comunque io mi sono pesato, questi giorni sono sceso un po'. Peso 61 kg. Ciao ragazzi, buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao Gio. Sentiamo domani mattina. Sono a loro, non scendo lì, comunque ti faccio sapere se scendo o no. Se non lavoro scendo, hai capito? Sì, ma dammi un messaggio al telefono, dai, che ce l'ho vicino e lo sento. Se entro, a che ora lo sai? Entro, no, sono 4, credo. Dai, se non mi arriva niente entro le 3:30 io scendo e ci incontriamo adesso. Se no, vabbè, quando si libera. Ok, ciao Gio, buonanotte, buon tutto, avanti Gio. Ciao, domani, buonanotte, sono io, ci sentiamo domani, ciao. Avanti Luca. Ciao Gio, buonanotte, buona giornata per domani. Comunque tu pesi 61, io peso 76, vabbè sono alto, non sono basso, non sono alto, ma non sono neanche basso, dai, ci sentiamo, ciao. Nemmeno io sono altissimo, però sono 1,65, però mi faccio rispettare. Dai, ci scherziamo, dai, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte. Allora devi pittare su 1,76, va 76, ciao, buonanotte. Cosa tondo? Tondo quadrato. Vabbè, mi sa che è più piccolo Massimiliano qua, se non sbaglio, giusto di età. Perché io ne ho 38, tu ne hai Massimiliano 37, giusto, 38. Sotto. Tu già lui ne hai? E io 38. Bene via, ma non c'è un genio? 39. Non viene più grande, dai, è una scala, dai. Siamo lì, 37, 38, 39. Andiamo, dai, adesso siamo tutti avanti, se dai più o meno, dai. Andiamo, avanti, Massimiliano. Ma Gianluca, 38, lui ha anche, bello. Ehi, cazzo, allora che sono con la Marchiano. 39 ne porto tra qualche mese, dai. Se devo vuole, le porto a giugno, 39. Mi vanno rimessi, io vado a dicembre. Non è che giorno, lui? Sono 16 dicembre. Tu vieni qua e adesso non mi hanno trovati da lì. È 30. È 30 dicembre, sì. Ti ho fatto un buon auguri, se non sbaglio. Ti ho fatto gli auguri. Non so come si va a mettere la parola delle 5, ma c'è della 2017, ma non le 5 come vogliamo Valacchino, di una pilotti. Adesso mi fa 2017 dicembre. Fabrizio Perinato c'è su Facebook? Fabrizio Perinato non lo so, mi sa di no. Non lo so, l'ho visto su Vimmer è quel programma che si mette nel cellulare. Lì l'ho visto. Allora, va bene. Allora, tu c'hai WhatsApp, così è. C'ho WhatsApp, Vib, Vox, tipo, vuol che tocchi, no? Quindi schiacci, comunichi e molli, poi li trasmette. E arriva il messaggio vocale al telefonino. È gratis. Voxer. Gestivo, gestivo. Ok. Riprendi il giallo. Tutto mi vedo già. Adesso ho l'ora di Massimiliano, infatti mi dà 5 minuti e poi chiudo. Dove mattina avanza alle 7 e mezza. Ho capito, ma è là. Non ha finito su gatti di cose della cura, sono giugano, vabbè, vedo che ha una bella puzza. 5 minuti ancora e poi io vi saluto. Così, non entriamo in questo discorso, fanzino nero. Mamma non è lavorando, lui si tiene sul computer, vorrà dire che la sera te lo fai, non lo sapete la tua domenica, poi lo va a noi che te lo fai. Però forse, così, l'ordinaria, quella che aspettavano mezza giornata, lo sai. Non sono assicurato, Massimiliano, no, capito, non sono assicurato. No, magari. Ma quello non ci rientro perché no, sono poche le ore, capito? Cioè le giornate sono poche, sono 6 mesi, 4 conto, travaglio 4 volte la ghieda e sono 4, 8, 12, 16, 16 giorni, 16 sono così al mese, non ci rientro, ma quello non fa. Ripeto, nei 6 mesi del comune mi mancano, perché 3 mesi me ne avevo già pagati, 1.300 mi hanno dato quasi, 1.300 rotti, però c'è la rimanenza, perché non sono 6 mesi continui, cioè ha saltato da settembre, dicembre, mi hanno pagato, e poi c'è gennaio, marzo, insomma, e quindi non ci rientro, mi errore qua, perché non ne ho, e non lo posso fare. Infatti mi ha detto, fallo a te, se non la posso fare non ti azzettano, cosa che mi copri di tempo, non ti azzettano, ci vogliono 78 giornate. Fatto, grazie. Ora, io devo fare. Avanti, Gianluca. Se non si gatto, se non facendo una cosa proprio di sciavoce, a Baida, mi sono stato italiano, secondo me, andrà tutto a rotto, se non risolvo una situazione tra adesso in queste, con queste votazioni non so più cosa pensare, perché questa giovane c'è da spasso, questo qua niente allunga di sempre di cose pensionistici, niente la via tutta 80 anni, ma cazzo di gamba, così cosa non preso è, così è stato morire e così non devono pagare l'impresa, pagare la pensione, non preso, poi su, se bisogna giamba. Maladesione, e poi quella cosa triste anche che uno deve lavorare tutti gli anni e poi dopo non si libera un posto di lavoro, i giovani non lavorano mai, capito? No, i giovani non hanno neanche la possibilità di iniziare a imparare o lui, la luce, e capito? Perché adesso tu lo prendi quando capita proprio lavoro, ecco, con esperienza. Un ragazzo di 18 anni che scende da quella, ha esperienza buona. Se non vuole mai fare esperienza non l'ha mai. Oppure magari dopo passa il tempo, se anche fuori è stato, capito? Cazzo, è tutto proprio contro. Poi secondo la compagnia della figlia, lo prende lui. Mi ha fatto un'opportunità di inserire questi giovanotti, diciamo, giovanotti ragazzetti di 18-19 anni, no? Nulla, no, è un casino. Ma non è che a me, quando ho 18 anni io, pa caridai. Abbiamo 11 che bigliavo, poi andavo a 70 anni abbiamo anche alla chieda, al panificio, mi bisognava le 2 notti. E ho fatto un conto, entrava alle 2 e esce alle 2. Alle 2 di notte alle 14, come devo dire alle 3, a 70 mi avrà anche la ghetta. E io di ciò, però vedi, quegli anni lì, secondo me, nonostante tutto, erano sono stati positivi, perché chi non voleva continuare a studiare, come me, io non avevo conto in officina, avevo 14 anni, proprio io ho preso, e la zia, 150 me la franchi a Lumessi. Quando si lamentava, ho preso, perché era pure un socio, era, l'avevo passato nella legge, ha detto, però la cosa buona era quella, che tu potevi andare a ragazzino e cominciare a fare un mestiere, imparare un mestiere, formarti, magari anche specializzarti se ti rivedeva la cosa, comunque sia, l'importante è che eri proprio travagliente, quando sei proprio travagliente di vita. Ma potevi avere questa situazione qua. Lo feo è che lui arriva dei giovani per dire, va bene, non voglio studiare, ma cosa voglio fare? Che cosa devo fare? Non posso fare in casa grattante. Ecco. E chi viene che purtroppo succede che passa dell'anno, faccia qui, ma non sanno come te la gioca. Tu mi sei, tu mi hai detto, quindi 150 euro al mese. e lui da Riccio a Segundo, tu conta, devi a Sosso, e ti parlo, c'avevo, adesso avevo quelli lì, ho via, sì. Quanto pensate, ma io, studiato, sono come la unità di studiare. Ma la parte non potevo perché non c'era la possibilità di studiare, la verità. Non c'era. Non me ne nego, non mi vergogno a dirlo, ecco. A Segundo, io come da zia, 20 mi avanchi alla ghetta. A Segundo mi dà zia Lizzi. E mi dice, c'è più in chivio, tu conto, all'otto, all'una, la lite è 3 e mezzo in trova, è stata una zia a casa di 7. E avevo 14 anni. A Segundo, la ghetta mi dà zia, la lite è 20 mi avanchi, 20 mi avanchi. A chi dice, non avevo una magna, questa parte era Cristo, io dicevo, si chiamava Mario Erranca, era un ex poliziotto, contando, sarebbe in officina, però faceva fammi, perché aveva una macchina a lungo di pazzia. Vedi, è così, è tutto così. Ma chi si li vede, dopo non verranno i controlli perché ti fanno travagliare niente, dopo un fuoco della decina d'anni, da 15 anni, allora hanno cominciato la gente a ribellarsi, allora hanno cominciato a pulirsi in regola e a cazzo la sicurezza personale, questa è la cosa. No, ma fatti capire, quindi, si andava anche per una miseria. Invece falegnameria, ma ci durano un bel po' in chili, che si chiamano i bestini, parlano di cicli tagliati, ma in chili pigliavo, ma se non mi ricordo, sarà sempre 20.000 lire alla settimana, 15.000 lire, una cosa del genere. C'era sempre vicino a casa, ma dicevo, via Marghinotti, e girava uno a venire via Marghinotti in chili, farò appello, farò il motorino. Vabbè, è un casino, tu ma fuori la valigetta è una miseria, via. La valigetta è pesante, e sicuro che ti dà un tintare di ghisci, cazzo, ti fai dentro con queste macchie, tu ci butti la vecchia, non mi dà una miseria, allora la valigetta mi dà il bagno, si è andato. Via, invece va a bagno a poco, beh. Allora faccio un discorso che... È troppo un catastrofe la situazione. Comunque sia, non ce la fanno neanche loro andare avanti. Farti mostrare per poter pagare le tasse, ma fai in modo che non vieni sanzionato con delle mori, delle cose che, diciamo, che cattivano già nella vita, che cattivano già nella vita, ci sono così. Sono costretti anche a non assumere, giustamente, come tu, uno l'esperienza non la di là. Cazzo, ma tu metti anche in condizione a un datore di lavoro, un'impresa, un artigiano, un libero professionista, e fare in modo che questa formazione dei giovani insomma, siano sovvenzionate, ecco. Fai con un orario delle cose che magari i contributi non li paghi, paghi solo lo stipendio della cosa e quello che è lì prende, lavora e si impara un mestiere, ecco, tutto lì. Signori, guarda, riprenderò, io mi devo allontanare un secondo dalla radio. Se ci siete, riprenderò un po', se no vi saluto. Via Massimiliano, mi è ancora 5 minuti, dai, mi trattengo. Hai mezzo a chiudo, 5 minuti tondi tondi. Sì, Gianlu, purtroppo è così, boh. Quindi, poi quando ho iniziato a lavorare con il comune, vabbè, da poco, non era tanto. E io ho iniziato a guadagnare, nel senso che lo stipendio, fai le ore che fai e va bene, ti riesci a gestirti un po', no? Comprati quello che ti serve. Ma non lavoriamo con la miseria, cosa fa? No, secondo me sì, tu direi meglio quelli che niente, però è sempre messo il tempo perso. Gli inganti venivano, gli inganti di più di quanto erano lì. Tipo sotto le volte che sono romaniali, a casa era un problema. A Segundo, lei si può finire la ventruccia, ma qui fa 30, non mi vengo a 30 io. No. Tipo io ormai, no, ci vengo, punta, ma mi dice quanto erano lì, e fuori molto meno, non è problema. Io alle 8 sono lì, puntuale. Mi alza alle 6 e mezza a casa. Alle 7 e un quarto. Io alle 8 sono lì. No, guarda sei tu. Guarda ciao. Cazzo mi devo assicurare da 50. E tu mi vuoi da 30. Ma non ti ammazzi. Se ti assicurare devo in burro. Infatti, hai solo un certo. Ma ti chi sono problema? Infatti c'è un problema, non... Mi devi dire, ma è meglio di nulla, ma non ci vado, ma che sto fatto? A rovinarmi la schiena con la polizia di salute di Siria. Allora, mi ha fatto. Ma se andiamo piano, già riusciamo a fare qualcosina. Ti chiamano la madre, ti chiamano l'altra. Mi chiamano la signora, proprio la signora Massilla, male, mamma, c'è la Medusa. E non l'ha già fatta. Si chiama la cugina. Ah, ma è seguito medica, mamma mia. Ma è tremendo. Ma ci porta a un telefonino e mi ci porta un baga. Poi mi dice, ti abbatta. Se mi porta un baga, mica mi porta un gratis. Ma ne abbia lavori da fare, capito? Giallo, ma non... Allora, perché ti mangiano? Sono in tre. Guarda, la signora. La prendi uno con la cugliera. Cazzo, tu te la tutti i non lo sei bito, no, no, infatti non voglio andare a pagare. Se era la sua, è stato quanto anno, me l'abbia nominato, la me ne sarà fabbrica, uff. Questo è un mito, mi va, signori, dai, io chiudo,